Allora, la situazione adesso è particolarmente tesa. La polizia e i carabinieri sono entrati nella parte della comunità montana dove non potevano entrare. Sono entrati, noi siamo arretrati verso la montagna, dopodiché hanno deciso di continuare ad avanzare. Noi ora siamo su per i sentieri sulla montagna. E gli sbirri vi stanno seguendo in mezzo al bosco? Ci stanno seguendo nei boschi. Caccia all'uomo. Sì, e siamo, senso, tutto il presidio praticamente siamo sulla montagna. Siamo tantissime persone che cercano di salire qua dai sentieri con la polizia che ci insegue. Ci sono anche persone anziane che fanno ovviamente molta fatica a tenere il passo. Poi ci hanno veramente bombardato con una quantità immane di lacrimogeni. C'era anche qualcuno, non so se avete detto, ho fatto la telefonata prima, ho visto almeno due persone con un taglio sulla testa. Comunque adesso appunto siamo sulla montagna, sui sentieri e stiamo salendo. State salendo appunto abbastanza sparsi, se ho capito bene, quindi... Sì, stiamo salendo abbastanza veloce, da dietro dicono sempre di aumentare il passo. Io non ti so dire a che punto sono di questo serpentone, certo, che si snoda sulla montagna, quindi certo. Comunque dalle voci che girano stanno continuando a salire pure loro.